giunta. Ho bisogno di sognare e i tuoi occhi dolci. Basta solo che io fossi male e il mio cuore batte più forte. Non riesco più a dormire, il pensiero non si spegne. Ho bisogno di te, ho bisogno di te, di te, di te. Mi aiuti dentro casa mia e leggo un libro, ma ad ogni virgola io mi faccio e ripenso al fatto che non ci sei più. Sei andata lontano, sto piangendo come un bimbo che ha smarrito il cammino. Ho bisogno di te, ho bisogno di te, di te, di te. Come on. Ho bisogno di te. Di te, solo di te, di te. Na na na na na.